Ad alta voce, edizione 20 anni. Tommaso Ragno legge Panchine di Beppe Sebaste. Beat. Anni fa c'era una serie televisiva che raccontava di un gruppo di adolescenti, i ragazzi del muretto. Avrebbe anche potuto chiamarsi i ragazzi della panchina e sarebbe stato altrettanto universale. Nella mia adolescenza, ritrovarsi con gli amici aveva effettivamente a che fare con delle panchine. Parlo di un'epoca in cui per vedersi non c'era bisogno di telefonarsi, ci si incontrava e basta, e si sapeva sempre dove. A una certa epoca il luogo di ritrovo era una delle panchine, l'ultima, di un viale alberato dai marciapiedi molto larghi, dove il flusso delle automobili non aveva ancora l'intensità di un'autostrada. Le si poteva anche guardare una a una e commentarle. La gente lo chiama lo stradone, anche se il vero nome è più banale. Viale Martiri della Libertà. E da un ponte arriva a un casotto giallo che fa ora da rotonda nel traffico, costruito in passato dal mitico architetto Petitot. Una volta era un circolo ricreativo e quando ero piccolo mio padre suonava lì il pianoforte con gli amici la domenica mattina all'ora dell'aperitivo. Io leggevo i miei fumetti. Ma la mia vera educazione alle panchine avvenne nel Parco Ducale di Parma, il giardino pubblico, come lo chiama la gente. L'iniziazione alla poesia e ai comportamenti trasgressivi avvennero lì. Fu una cosa dolce e forte. Il parco era il mio rifugio, la mia campagna, il mio aperto mondo. Non avevo dubbi che le panchine, ma anche i prati e il selciato, fossero i luoghi naturali in cui sedermi. Stare ai tavolini del chiosco posto al centro del parco era una rarità, insieme al vezzo di prendere con un amico che disegnava un tè all'arancio. Avevamo 17 anni, ci definivamo artisti beat. Non so cosa fosse arrivato prima, se la suggestione e l'ammirazione esteriore per chi si vestiva strano, il sapore acidulo dei joint, la lettura dei poeti beat americani, la seduzione carnale delle ragazze, la spiritualità orientale. Fu un'estensione infinita di scoperte e di esperienze possibili, tutte concatenate, e di cui la scuola e il mondo degli adulti non ci dicevano niente. Leggere le poesie di Allen Ginsberg mi fece nascere allo scrivere, cosa che confusamente volevo fare senza sapere né cosa né come. Ginsberg insegnava che si può scrivere di tutto e che tutto era degno, anzi santo. Il corpo, il sesso, ogni sensazione e desiderio e il mondo esterno, niente escluso. Il ritmo delle sue poesie era altrettanto fisico della musica rock e blues, e il suo messaggio di fondo, allargare l'area della coscienza, fu tra i primi e più forti orientamenti etici della mia vita. Nessuna avanguardia letteraria europea, tantomeno italiana, sapeva collegare stile in senso letterario e linguistico a uno stile di vita. Ginsberg, in una parola, era libertà pura, che apriva e faceva respirare ogni poro della pelle e della mente. Eccomi allora seduto sulle panchine del parco, sotto gli ippocastani, oppure lungo il laghetto coi cigni e le anatre, e in mano un libro e una matita per sottolineare. Oltre ai poeti beat, potevano essere il saggio sulla poesia cinese di Ezra Pound, uno dei maestri di Ginsberg. Lui stesso, traduttore dal cinese senza conoscere il cinese, con Ernest Fenollosa. O I Vagabondi del Dharma di Jack Kerouac. O un numero del Verri, unica rivista italiana istituzionale che della letteratura dava un'idea diversa da quella dei manuali scolastici. Anche se alcuni cominciarono a pubblicare negli anni 70 testi di Pagliarani e Sanguinetti. Oppure leggevo con avidità una delle tante piccole riviste dei circuiti alternativi che si stampavano in quegli anni, da Tam Tam, diretta da Adriano Spatola e Giulia Nicolai, a North, dove scoprì ad esempio Gary Snyder, il suo motto «Energia è eterna gioia», mutuato da William Blake. Quello stesso Gary Snyder, eroe di Kerouac col nome J.F. Ryder, col quale ebbe l'ebbrezza a 18 anni di leggere poesie in pubblico a Venezia. Poesia sperimentale, si diceva. Per dare l'idea dell'ebbrezza e della tensione che passava nel fare poesia di quegli anni, cito una specie di epigramma datato 17 marzo 1976 di Franco Beltrametti, che come gli altri sarebbe diventato compagno di reading di poesie. Cosa intendi con «non capisco la tua roba»? Cosa intendi per «capire qualcosa»? Da dove viene l'arroganza del tuo «capire»? Cosa ti fa credere che tutto sia a portata del tuo consumo, a misura del tuo ipotetico appetito? Sono contento che non capisci. Se tu capissi, mi assalirebbe un dubbio atroce. Il tuo non capire carica di significato anche la più sbandata parentesi aperta. Il carattere minoritario di questa vocazione letteraria era tutt'uno col suo fascino e con la vocazione stessa, scoperta e affermazione della marginalità. Mi piacevano quelli che erano diversi, ribelli nello stile e nell'atteggiamento. Mi piaceva l'innocenza di quella ribellione, la sua carica erotica, spesso inconsapevole. Oggi so che innocenza, diversità, ribellione e poesia erano, e forse sono, sinonimi o equivalenti dell'erotismo. Sulle panchine del parco, dunque, accanto agli anziani che appoggiavano sul retro le loro biciclette e chiacchieravano in dialetto, cominciò a radunarsi una fauna eteroclita di giovani di varie età, coi capelli lunghi e gli abiti colorati, che fumavano sigarette coniche, ridevano, si sedevano a volte sugli schienali, suonavano la chitarra, si passavano il cilum. A volte ci sedevamo a cerchio su un prato, ma i prati non si potevano calpestare e i nostri piccoli raduni attiravano le Alfa Romeo azzurre della polizia, che sui prati ci andavano con le ruote. Conflitti quasi quotidiani. Mi interessano però le panchine della solitudine, della mia formazione, delle mie associazioni mentali, delle mie prime poesie. Frequentavo molto anche quelle di pietra, addossate ai muri del Vescovado, nella piazza del Duomo, negli anfratti del Battistero. Seduto su quelle panche, la qualità metafisica di quel vuoto, l'umiltà sublime del romanico, le sfumature di rosa e bianco del marmo mi davano, anche senza conoscere la storia, una strana euforia. Al parco, invece, sognavo a occhi aperti. Credo che senza le panchine, per esempio, non avrei amato e capito Cézanne, di cui mi piacevano i quadri, ma su cui furono illuminanti alcune osservazioni proprio di Allen Ginsberg, che descriveva l'immobilità del pittore di fronte alla sua ossessiva Montagne Sans Victoire, come se fosse la postura di uno yogi indiano. Il fatto, cioè, che lui, Cézanne, inquadrasse il paesaggio della montagna per ore e ore, assorbendolo con un'intensità tale che se solo si scostava di pochi centimetri l'intero paesaggio mutava, aveva qualcosa di mistico. E c'era l'idea che nella più protesa e oggettiva delle visioni egli finisse in realtà e consapevolmente con l'osservare se stesso, la propria soggettività più fisica e profonda, ragione per la quale, credo, si dice che Cézanne sia il primo cubista, ovvero il primo pittore a dipingere la pittura e l'atto del vedere. Tutte queste cose le pensavo sulla mia panchina del parco senza usare concetti. Non mi interessava la cultura e le traducevo a mio modo in poesia, guardando gli alberi di fronte e sopra la mia testa, i passanti del vialetto. Ancora adesso, se dovessi pubblicare le mie poesie, il loro titolo complessivo resterebbe quello di allora, Parco Centrale, anche se prima di tutto sono poesie scritte su una panchina. Sopra la strada, nella linea retta, si vedono le cupole verdi degli alberi, con le foglie si intrecciano, gli alberi fra di loro e i rami di diversi alberi, le foglie di diversi rami che si mettono insieme, si riempiono gli spazi come foglie dello stesso ramo, come rami che appartengono allo stesso tronco, si intrecciano in senso orizzontale, possono essere uno davanti e uno dietro, raramente uno più alto e uno più basso, sono uno di fianco all'altro, si riempiono a vicenda gli spazi vuoti con i rami, con le foglie non dello stesso albero, sopra la linea di demarcazione della strada, proprio di fronte, davanti agli occhi, alberi diversi formano alberi uguali, si intrecciano in senso orizzontale. Eliminate le petite sensations e i bambini col gelato, resta il dettaglio più importante, la contemplazione delle tue stesse pupille, contemplate attraverso le tue stesse pupille, proprio come Cézanne. Zattere. C'è un altro episodio della mia formazione, legato al parco e alle panchine, che devo assolutamente raccontare. È la storia di una scoperta casuale che ha del miracoloso, almeno per me. Non ero nel Parco Ducale, ma in un altro, più sportivo, detto la Cittadella. In basso c'erano campi da calcio, in alto, sui cosiddetti bastioni, c'erano altri prati appartati con e senza panchine. In uno di questi mi trovavo a oziare intensamente con una ragazza e dietro una panchina, seminascosti da un cespuglio, trovai dei fogli laceri. Erano pagine strappate e squadernate di un libro senza copertina, senza in realtà nessuna indicazione che rinviasse a una fonte o a un significato. Mi misi a leggerle. Fu uno shock, ma meraviglioso. Non solo capivo quelle strane frasi, ma mi sentii profondamente capito da esse. O Sariputra, qui la forma è vuoto, e il vuoto è forma. La forma non è altro che vuoto, e il vuoto non è altro che forma. O Sariputra, ogni cosa qui è caratterizzata dal vuoto, non è nata e non è distrutta, non è contaminata e non è pura, non aumenta e non diminuisce. Il testo continuava negando uno a uno l'esistenza effettiva dei cinque sensi, negando infine la mente. Era lo stile logico di quelle frasi, così vicino alle poesie che mi piacevano, a darmi un senso di evidenza e di beatitudine, effetto purificatorio del dissolvimento dei vincoli logici e concettuali, come l'immagine, forse provenzale, della ninfa che si veste di ciò che la denuda. Gli altri fogli erano in uno stile diverso, una prosa che si dispiegava in triplici negazioni, finché la quarta frase di ogni periodo affermava quanto si era prima negato. del tipo, invento, non c'è poesia, non c'è nessuna poesia, non c'è niente che si possa chiamare poesia, per questo possiamo ora dire che c'è poesia. Molto tempo dopo capii che il secondo testo in qualche modo illustrava il primo e che le negazioni di ciò che si afferma alla fine significa che ogni fenomeno, ogni cosa presa in esame doveva essere annullata come oggetto della mente, come concetto, prima di poter essere accolta come cosa nuova, con nuova freschezza. Dopo avere cioè trasformato i meccanismi della nostra comprensione in qualcosa, per così dire, di più ingenuo, in realtà è molto più vigile e attento. Molti anni dopo, insomma, seppi che quei frammenti di testi erano rispettivamente il Sutra del Cuore e il Sutra del Diamante, due dei testi più antichi della tradizione buddista e zen. Per quanto riguarda il Sutra del Diamante, che recide l'illusione, i suoi insegnamenti, poiché di insegnamenti si tratta, così vengono grosso modo presentati. Tutti gli insegnamenti che vi do non sono altro che una zattera. Tutti gli insegnamenti devono essere abbandonati, per non parlare dei non insegnamenti. Chi parla così è Buddha, il Tathagata, colui che viene e che va, cioè colui che non viene da nessun luogo e non va in nessun luogo e che proprio per questo viene chiamato Tathagata. L'insegnamento, dice, genera virtù e felicità, ma chi lo apprende non è catturato da virtù e felicità, né conosce qualcosa che si chiami virtù e felicità, eccetera. Non ci sono panchine, non c'è nessuna panchina, non c'è niente che si possa chiamare panchina. Per questo ora possiamo parlare di panchine. È chiaro che l'oggetto che ritorna, rinviene, risuscita è un altro rispetto a quelli che sono stati spazzati via dal ripulisti della mente, delle sue passioni e dei suoi pregiudizi. Quanto al Sutra del Cuore, Hanya Shingyo, o in sanscrito Prajna Paramita Hridaya, che nelle sedute di meditazione dei monasteri Zen e in tutti i luoghi di pratica viene intonato a voce alta e ritmato dal respiro, è di una tale nudità e bellezza che mi rimase addosso per anni prima di scoprirne la fonte. Ma in questo caso fu uno scherzo del destino, visto che la pratica a cui corrisponde divenne ed è tuttora la mia, pur da eterno principiante. D'altronde lo Zen si pratica in Zazen, cioè stando semplicemente seduti, Shikantaza, di fronte a un muro bianco, ma si può fare evidentemente ovunque. Testa verso l'alto, ginocchia verso il basso, gli occhi che guardano senza catturare nulla, pura contemplazione, pensieri che scorrono come nuvole in cielo e viceversa. Sedersi su una panchina, ne è insieme preludio e prosecuzione. Fin dalla prima volta che li lessi, quei testi mi diedero la stessa emozione che imparai a ricevere da certi testi della letteratura, per esempio le poesie di Corrado Costa, ma soprattutto l'opera folgorante di Samuel Beckett, grande frequentatore di panchine, e il suo tentativo, a volte spasmodico, altre umoristico, di decostruire e ricostruire nella lingua una grammatica dell'ineffabile, che è sempre un voler dire e prendere il presente. Teologia apofatica o negativa, come scoprii che si dice studiando filosofia e in particolare Jacques Derrida. Quei testi strani e laceri, quei testi senza corpo apparente, dimenticati e ricordati di continuo, sono stati la pietra miliare e il punto di riferimento di molte mie scelte future. Un'etica e una poetica della non ideologia, dell'apertura, del far coincidere sempre in ogni campo l'immanente e il trascendente. Ma allora, in quel mattino estivo di metà anni 70, cosa ci facevano quei fogli sulla panchina di un parco? Era un atto di book crossing buddista ante litteram? Prima di allora avevo letto soltanto Beat, Zen e altri saggi di Alan Watts. E ricordo che mentre lo leggevo mi ero tagliato le unghie dei piedi e scambiai quella sensazione di pigro e rilassato benessere col cosiddetto Satori. Perché, domanda inevitabile, dovevo trovarli proprio io? Non è solo perché ho conosciuto i sutra su una panchina che ne parlo. Qualche nesso invisibile deve esserci. Se dopo le esperienze che sto raccontando io mi trovo qui, alle soglie della maturità, a scrivere un libro sulle panchine. Forse le panchine non esistono. Forse sono solo zattere. Adesso mi viene in mente che le mie poesie avevano questo esergo. Diciamo, c'è un albero, ma non vediamo realmente l'albero. Tommaso Ragno ha letto Panchine di Beppe Sebaste, a cura di Fabiana Carobolante con Ornella Bellucci, Filippo Travaglio e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad Altavoce Edizione 20 anni è un programma Rai Radio 3.